accortosi che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. E siamo tornati in onda, 15:32, sentite ancora in sottofondo la verità di Brunori perché sta arrivando sulle nostre frequenze di 103.1. Noi vi ricordiamo che siamo Lucri e Benny, Benny e Lucri, mercoledì di Fujiko Factory, state ascoltando Radio Città Fujiko, il nostro numero è sempre il 333-180-94-94. Ma chi stiamo per intervistare, Benny? Stiamo per intervistare il meraviglioso Brunori Sasso. Aspetta che abbasso un po' la verità, sì, perché sì, c'è sì. troppa verità. Cioè noi la vorremmo riascoltare ancora. Ora questa grande verità, però vi raccontiamo chi è Brunori che sta arrivando sulle nostre frequenze. Esatto, Brunori Sas, Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, classe 1977, e il suo ultimo disco, A casa tutto bene, che è uscito nel 2017, È stato acclamato dalla critica, infatti ha vinto la Targa Tenco come miglior canzone alla verità. Che è appunto quella che stiamo ascoltando ora in sottofondo. E anche il premio May come artista indipendente dell'anno, pensa un po'. Però acclamatissimo anche dal pubblico, da me che forse diciamo è la cosa più importante. Sì. Acclamato anche da noi, primo posto sulle piattaforme streaming, podio anche nella classifica delle vendite FIMI, 15 milioni di streaming su Spotify, insomma grandi vendite, grandi ascolti e soprattutto il tour concluso da poco, tutto esaurito, e si sta preparando al nuovo tour, è uscito da poco il singolo, ma io direi di farci raccontare tutto direttamente da Dario, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Brunori. Ciao, ciao a tutti voi. Come benvenuto. Bene, bene, sono acclamato anche per la mia bellezza, avete dimenticato di sottolineare per la mia prestanza fisica più che altro, quindi purtroppo la critica perché non sei qua oggi, altrimenti l'avremmo detto anche quello. Certo. Sicuramente. Lo so, ma traspare anche già solo in telefonica così. È vero, sì, sì, una voce brillante. Come stai? Proprio brillantissimo. Sto bene, voi come state? Noi stiamo bene, siamo molto felici di, insomma, di averti al telefono insieme a noi qui sui 103.1. Ma stai registrando? Ti abbiamo rubato dal lavoro? Beh, mi fa sempre piacere quando mi distolgono dal lavoro. Ti ringrazio perché mi ero messo in realtà, mi sono beccato in questa avventura sperando di non dover lavorare, invece sto lavorando il doppio, quindi ringrazio tutti quelli che mi tolgono dall'idea che la musica sia un lavoro. Ecco, esatto, perché diciamo la musica è un lavoro, oltre a una cosa meravigliosa, cavolo. Sì. Mannaggia, guarda, speravo che non lo fosse, invece a un certo punto lo diventa. Comunque si sta registrando cose nuove, nuove canzoncine, e intanto diciamo mi faccio un po' di chiacchiere su quello che è appena uscito. Beh, ma tra poco ne parliamo, però abbiamo appena ascoltato La Verità, no? Che è un pezzo tratto dal tuo ultimo disco, l'abbiamo detto, A Casa Tutto Bene, che è uscito ormai 2 anni fa e che fra l'altro a me personalmente, penso anche a Lucri, ricorda tantissimo il primo anno di università quando ancora non facevamo radio qua a Bologna, quindi fa una certa impressione essere noi qua a parlare, metterlo in radio e parlarne anche con te, no? Incredibile. E beh, sei la colonna sonora infatti delle vite di tanti, e il tuo primo lavoro, volume 1, è uscito nel 2009, ben 10 anni fa, e quindi volevamo sapere cos'è cambiato da allora per l'artista Brunori per la sua musica. Beh, da una parte guarda, è cambiato sicuramente l'approccio. Ora, dicevo prima scherzando che una diventa un lavoro, quando ho cominciato era proprio ho scritto quel primo album senza nessun tipo di velleità, proprio come un'esigenza e come un'urgenza, e quando scrivi in quel modo ovviamente l'aspetto autentico delle cose che scrivi è preservato. Poi via via che vai avanti negli anni, che diventa una professione, devi stare sempre attento, perché in agguato si può, no, anche nella scrittura ci può essere in agguato la professione, il tavolino, il mestiere. Quindi la cosa a cui sto più attento è proprio di cercare di preservare, per quanto sia difficile, perché poi non è neanche giusto rimanere ancorati al passato, però ecco, preservare quel tipo di spontaneità, quel tipo di urgenza, e far sì che quando scrivo comunque che la scrittura non sia un bluff, è la cosa fondamentale. Via via che veramente in quegli anni penso sia la cosa più difficile per chi fa questo tipo di mestiere. Hai detto una cosa preziosa secondo me, perché è giusto essere professionali, cosa che magari tante volte in questo ambiente non si vede, perché si ha l'idea che la musica sia solo musica, in realtà la musica è una professione ed è impegnativa in quanto professione, magari anche più di altre cose che sono appunto studiate a tavolino, però come dicevi tu è giusto mantenere questa semplicità, questo essere spontanei, che è facile anche magari che scompaia col tempo, come magari che scompaia anche la passione, quindi sono contenta che tu abbia precisato questa cosa. Beh, anche perché sai qual è il problema? Non è tanto che scompare perché lo fai, anche perché quando cominci a muoverti in un ambiente, quando cominci anche semplicemente a cantare le tue cose per tante volte in continuazione, no? Sono cose che ti appartengono, magari può venire fuori una sorta di disincanto, per cui la spettacolarizzazione delle proprie emozioni magari può far perdere proprio ai tuoi stessi occhi, no? il desiderio di, no, di continuare in una direzione. Quindi invece è molto importante che questo, in questo senso i live sono molto importanti, perché quando guardi il pubblico che si emoziona per cose che hai scritto tu, è anche un modo per riportarci l'attenzione, perché magari a volte dopo 7, 8, 10 concerti cominci a cantare le cose e magari con la testa sei da un'altra parte, ed è strano, no, che invece il pubblico ti restituisca qualcosa che tu hai provato e che per te dovrebbe essere importante, e tu magari invece stai pensando alle bollette. Ecco, questo è molto importante, molto molto importante. Poi è naturale, perché siamo tutti umani, no? Quindi... Beh, assolutamente, per carità. Ma infatti tu hai appena detto giustamente che insomma al live poi vedi le persone che cantano le tue canzoni, quindi mi piacerebbe chiederti cosa provi quando vedi insomma centinaia di persone che cantano le tue canzoni, e quello che dicevamo anche prima, sapere che sei la colonna sonora di tanti momenti, magari sia belli che brutti, emotivi. No, la parte mi fa... un po' mi fa ridere, nel senso che comunque è sempre uno stupore, perché per quanto tu possa appunto farlo da tanto tempo, è sempre qualcosa che ti stupisce e ti sorprende, perché pensi che siano cose che appartengano solo a te, quando invece vedi che anche gli altri in quella cosa hanno trovato loro stessi. Perché poi, ecco, secondo me il cantante in generale, il passaggio più importante che deve fare è che le canzoni in realtà sono uno specchio per gli altri, cioè per chi ti ascolta deve potersi specchiare, non è una cosa tua, è una cosa, appunto, quando la consegni è una cosa di tutti, no? Ed è, quindi una parte mi stupisce, dall'altra è proprio un momento di, è come un rito, ecco, tu sei un cerimoniere e stai celebrando un rito in cui non sei tu la cosa importante quando fai un concerto, ecco, il cantante non è la cosa importante, è un cerimoniere per una cosa che coinvolge tutti, e questa cosa qua è molto bella, forse è la cosa più bella a distanza di tempo che posso dire sul fare concerti, che comunque, ecco, per me che sono un pigrone pantofolaio meridionale, è sempre molto faticoso fare i live, però quel tipo di, sì, proprio di emozione che travalica il me e gli altri, no, proprio che è un grande noi, questa cosa qua mi è proprio meravigliosa, quindi ecco, provo questo, provo una meraviglia in certi momenti, non sempre. Vabbè, giustamente non sempre, però sapere che provi meraviglia è una cosa molto bella, la meraviglia è una cosa molto bella e spesso ce lo dimentichiamo. E non è scontato. Beh, assolutamente. Noi abbiamo dato la possibilità ai nostri ascoltatori sui 103.1 di scriverci qualche domanda da farti. Ad esempio Giulia ci chiede come fai a esprimerti sempre nel modo giusto, che è una bella cosa. È una genialità unita ad un talento incredibile, bellezza, prestanza fisica, lo dicevo prima, è ampio parcheggio anche, ho tutto, mi ha voluto dare tutto, questa, ragazzi, è una sorta di iniquità proprio della natura, della vita, che, sì. Cara Giulia, mi crea difficoltà nei confronti di voi comuni mortali. Ragazzi, c'è chi può e chi no, c'è chi può e chi non può, Bruno ripuò. Poi c'è Carlotta che si domanda da dove parti per il tuo processo creativo, quindi dalla musica, da un'emozione, dal testo scritto per intero, qual è la prima, il primo step? Ma guarda, secondo me nella vita in generale la risposta giusta è sempre dipende, perché è vero, no? Quando qualsiasi cosa mi chiedono mi viene sempre da dire dipende, perché non c'è una regola scritta. Molto spesso, siccome sono, cioè prima di scrivere io ho sempre suonato, non ho mai scritto canzoni fino a quando praticamente non ho scritto il primo album, quindi non ero abituato a scrivere canzoni, ero abituato a suonare, quindi sono ovviamente più portato a cominciare tutto il processo creativo dallo strumento, anche perché lo strumento molto spesso ti guida nel processo creativo, non è scontata come cosa, perché spesso si pensa che uno c'ha uno stato d'animo, va al pianoforte e traduce quello stato d'animo in una melodia che appunto il piano poi tirerà fuori, invece molto spesso stai suonando il pianoforte pensando ai fatti tuoi o non pensando a niente, e così un'intelligenza forse che c'hai più nelle mani che non nella testa ti porta a suonare delle cose, e quelle cose che suoni ti stimolano a scrivere delle parole, quindi a volte invece magari semplicemente c'è qualcosa che ti ha colpito, qualcosa che ti ha subito viene fuori. Io in questo disco qua devo ringraziare molto l'app Note Audio del cellulare, perché molte cose le ho scritto che ero in movimento o in macchina e me le cantavo, quindi ho dei vergognosi messaggi audio in cui ci sono pezzetti di cose che poi sono diventate canzoni, ma appunto non ti so dire com'è nato, è venuto una cosa in un momento, a volte non lo so, penso che è una sorta di wifi, no? Che c'è nell'aria e io ogni tanto mi collego, per fortuna ho una password, capto il segnale, mi arriva qualche cosa e la registro, quindi non c'è una regola. Beh, diciamo che è una gran fortuna per noi che si attivi il wifi e insomma crei queste canzoni. Ma non lo so, questo secondo me c'è qualcuno che vorrebbe staccare il modem, però diciamo... Ma poi non dobbiamo vergognarci delle nostre note. È vero, le abbiamo anch'io effettivamente, no. Cioè non canto, però scrivo. No, esatto, faccio. Grazie a Dio non le faccio cantando, ma le faccio scrivendo, però effettivamente. Oh, c'è anche la lista della spesa nelle note spese. Sì, siccome sono molto sbadato, molto spesso il cellulare lo perdo e poi lo ritrovo. Quei momenti sono momenti tragici non per il cellulare, ma per le note audio che sono contenute nel cellulare, neanche per la carta di credito. Ho paura che qualcuno possa ascoltare. Quindi vorrei in realtà cancellarle tutte, ma poi ci si affeziona anche ai propri errori. Esatto, esatto. Pensa che io ho appena preso la patente, un po' in ritardo, perché in realtà ho 23 anni, meglio tardi che mai. Grazie alle note audio, perché il mio istruttore mi faceva registrare tutte le guide mentre mi urlava contro, e io quindi poi a casa mi dovevo riascoltare un'ora di guida di lui che mi diceva no, così no, e io prendevo appunti dai miei audio, quindi le mie note audio, oh mio quindi, Dio, sono peggio delle tue sicuramente. Questa cosa è inquietante. Lo so. Infatti un tutorial per la scuola guida violento, però l'ho presa, quindi questa è la cosa importante. Ma sai che il tuo istruttore di guida mi viene in mente che possa essere un po' l'uomo nero, e infatti un'altra domanda di un ascoltatore chiede proprio ti faccio i complimenti per questo veramente tripro carpiato che per riagganciarti al pezzo. Grazie, ti ringrazio. Grande creatività. Scriverò sotto la patente che tu mi hai fatto i complimenti adesso. Esatto. Penso che sia una cosa da aggiungere al curriculum, sì. Quindi l'uomo nero in cui tu canti, e io che pensavo che fosse tutta una passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Martina ti chiede: quale pensi sia il ruolo della musica di oggi a fronte dell'attuale clima politico e sociale? È andata sul leggero, Martina. Sì. Ma secondo me il ruolo poi sai della musica, insomma, poi le canzoni possono avere, mi viene sempre da dire dipende, no? Perché comunque le canzoni vanno bene anche se sono leggere, l'importante è che la leggerezza non diventi diventi frivolezza e non diventi soprattutto un alibi per non parlare di quello che ci gira intorno e che ci emoziona e che ci suggestiona. Alla fine uno scrive di quello che gli crea suggestioni, quindi non è che uno scrive perché ha la verità in tasca o perché vuole fare politica. Se una cosa mi crea un'emozione, inevitabilmente quella cosa, che possa essere una storia d'amore oppure la storia di uomini che vivono una condizione precaria, o la storia di persone che appunto non riescono ad arrivare a fine mese, che non riescono ad arrivare sulla terraferma, è sempre una suggestione di tipo emotivo, e io la traduco in canzoni. Penso che oggi l'artista abbia, soprattutto chi in qualche modo pensa che la scrittura debba tirar fuori, no, io a volte penso che un autore debba andare come quei sub che vanno in profondità negli abissi, no? E ti fanno vedere delle creature che magari sono anche mostruose, però poi quando sono illuminate in qualche modo creano una sorta di fascino che tu sai che sono laggiù ma nessuno te le fa vedere. Ecco, secondo me la scrittura deve essere un po' quello, e a volte si vedono anche cose che non fa piacere vedere, o cose che uno non si vuole neanche dire, non vuole dire neanche a se stesso. Per me la scrittura è questo, poi che sia politica, sociale, boh, non lo so, ha a che fare con questa cosa qua, poi può avere dei risvolti se le persone ci vogliono trovare significati di tipo sociale e politico, ben venga. Poi alla fine la canzone è pure un confronto. Io a volte ci sono pure, no, sui testi su internet, ci sono a volte dei testi scritti in maniera sbagliata rispetto a come l'avevo scritto io. Sì, no? Tipo angolo testi. È bello, Ed è bello perché poi alcune volte penso che siano meglio di come l'avevo scritto io, perché hai capito, a volte riutilizzo i testi di Angolo Testi invece di usare i miei, che sono scritti io, perché nell'incomprensione a volte dall'incomprensione lascio una cosa nuova, è esatto. Migliore. E tu parlavi di uomini, io direi anzi di donne e di uomini, perché fra poco ascolteremo il tuo nuovo singolo Al di là dell'amore. Già abbiamo avuto modo di apprezzare qua sulle nostre frequenze, l'abbiamo passato, l'abbiamo ripassato, un po' come la cotoletta, no? Esatto. Stata ripassata. Però diciamo che passarla oggi, avendo te in collegamento, ha un gusto diverso, rimanendo in tema di cotoletta, visto che abbiamo fame. È una cotoletta più saporita, diciamo. Esatto, è sicuramente più saporita. Doppia impanatura che oggi, buono. Dicevamo, si chiama Al di là dell'amore e è uscito nelle settimane scorse. È un brano che è stato definito granitico, potente. Molto come potente. Lo definisci? Ma granitico mi piace. Granitico. Sembra una definizione da classic rock heavy metal. Siccome ho un cuore di metallaro, sono felice che sia stato definito così. Ma non lo so, mi sembra veramente un pezzo. Sicuramente a livello di musicale abbiamo cercato di dare una. Non lo so, avevo desiderio di creare un tessuto sonoro sotto le parole che non fosse quello a cui ero sempre abituato anch'io, no, a quello che comunque istintivamente mi viene da fare, quindi magari meno acustico, più elettronico, e che fosse comunque marziale. Volevo che fosse una cosa marziale. Poi non lo so, io ho difficoltà a giudicare le mie cose, quindi tendo poi a dire fesserie, però lo trovo un brano che mi suggerisce una sorta di, non so, l'ho sempre visto come una preghiera, poi magari a qualcuno invece sembra un'invettiva, però per me è più una preghiera. Anche perché, come dicevi tu, poi a un certo punto si perde anche un po' il significato che dall'autore arriva anche un significato da fuori che non è necessariamente lo stesso. Quello che gli volevamo dare, però che sì, chiaramente. Ma beh, sai, le persone prendono dalle canzoni anche solo delle parti, cioè tutto, che vedo che ha molta importanza. Poi la sai un'altra cosa che è veramente interessante parlando di canzoni, che alla fine è quello che faccio, è che tante volte non è neanche quello che dici, ma come lo dici che certo. Arriva alle persone, e questa cosa qui è la cosa su cui sto puntando molto nelle cose che sto scrivendo adesso, cioè concentrarmi molto sulla totalità della parola, ma anche del canto e della musica che ci sta dietro, perché poi è l'insieme di queste cose che fa, che crea qualcosa nell'ascoltatore. Il messaggio vero è quello, ecco. Assolutamente, anche secondo noi il messaggio vero è quello che scaturisce l'emozione, come giustamente ci dicevi all'inizio, tu stai registrando, quindi sei in sala di incisione, quindi speriamo che arriverà cose nuove presto, noi le aspettiamo, ma soprattutto noi ti aspettiamo il 15 marzo all'Unipol Arena, perché sai, insomma, fra qualche mese parti in tour con il Brunori Sass Tour 2020, che comprenderà i più importanti palazzetti d'Italia, quindi noi ti facciamo un gigantesco in bocca al lupo, anche se non ne hai bisogno, noi ci saremo sicuramente il 15 marzo all'Unipol Arena. Va bene, vi aspetto allora. Ci saremo. Quindi noi non è una con minaccia. Con le cotolette, assolutamente, non è una minaccia. Io faccio un'ottima cotoletta. Anch'io so fare le cotolette molto bene. Ecco, quindi, però tu sei nordica, io sono toscana. Vedi, facciamo nord, sud e centro. Perfetto. E portiamo tre cotolette diverse. Va bene, faremo, diciamo, più che un tour, è una sagra del fritto diventerà. Vabbè, direi che è notevole. Notevole, per me va benissimo. D'accordo. Noi ti ringraziamo, anche se parleremo con te per ore, ma sappiamo che giustamente hai i tuoi impegni lavorativi, però noi ci salutiamo con Al di là dell'amore, che riascoltiamo super volentieri qui sulle frequenze di 103.1, e ricordiamo ancora il Brunori Sasso Tour il 15 marzo all'Unipol Arena. E via! Grazie, ciao! Un abbraccione, ciao! Ciao. Un abbraccione, ciao! Parlano come mangiano, e infatti mangiano molto male. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini.